540. Cappone arrosto tartufato. La cucina è estrosa, dicono i fiorentini, e sta bene perché tutte le pietanze si possono condizionare in vari modi, secondo l'estro di chi le manipola. Ma modificandole a piacere, non si deve però mai perdere di vista il semplice, il delicato e il sapore gradevole. Quindi tutta la questione sta nel buon gusto di chi le prepara. Io nell'eseguire questo piatto costoso ho cercato di attenermi ai precetti suddetti, lasciando la cura ad altri di indicare un modo migliore. Ammesso che un cappone col solo busto, cioè vuoto, senza il collo e le zampe, ucciso il giorno innanzi, sia del peso di grammi 800 circa, lo riempirei nella maniera seguente. Tartufi, neri o bianchi che siano, poco importa, purché odorosi, grammi 250. Burro, grammi 80. Marsala, cucchiaiate numero 5. I tartufi che terrete grossi come le noci, sbucciateli leggermente e la buccia gettatela così cruda dentro al cappone. Anche qualche fettina di tartufo crudo si può inserire sotto la pelle. Mettete il burro al fuoco e quando è sciolto buttateci i tartufi con la marsala, sale e pepe per condimento e a fuoco ardente fateli bollire per 2 soli minuti, rimuovendoli sempre. Levati dalla casseruola, lasciateli ghiacciare finché l'unto sia rappreso e poi versate il tutto nel cappone per cucirlo tanto nella parte inferiore che nell'anteriore dove è stato levato il collo. Serbatelo in luogo fresco per cuocerlo dopo 24 ore, dandogli così 3 giorni di frollatura. Se si trattasse di un fagiano o di un tacchino, regolatevi in proporzione. Questi d'inverno è bene conservarli ripieni 3 o 4 giorni prima di cuocerli. Anzi, per il fagiano bisogna aspettare i primi accenni della putrefazione, che allora la carne acquista quel profumo speciale che la distingue. Per la cottura avvolgeteli in un foglio e trattateli come la gallina di Faraone numero 546.